GR Europa. And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum. Discorso sull'Unione Europea questa mattina a Londra per il primo ministro britannico David Cameron. Se sarò rieletto voglio negoziare una riforma dell'Unione, ha detto, e poi ha aggiunto, il paese si dovrà pronunciare con un referendum, dentro o fuori. Io voglio che l'Unione Europea sia un successo, voglio restare, ma oggi, ha detto, la delusione verso l'Unione è ai livelli più alti di sempre. Primi commenti: Barroso e Merkel auspicano che Londra resti parte attiva e costruttiva dell'UE, Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, invece twitta, l'Europa alla carte non è un'opzione, concentriamoci su lavoro e crescita più che perderci dietro ai trattati. E tra i temi che segnano la distanza tra Londra e l'Europa c'è quello della Tobin Tax, che ha ricevuto il via libera per una cooperazione rafforzata dai ministri delle finanze dell'UE. Sono 11 i paesi che intendono procedere al servizio. Naturalmente avversi a prendere posto in maniera disciplinata nella casa europea, gli inglesi sono particolarmente allergici all'idea di mettere le mani nei mercati finanziari. Sarà anche perché la piazza londinese è la prima in Europa per capitalizzazione, dunque l'idea di una Tobin Tax, una tassa sulle transazioni finanziarie, è vista dagli inglesi come fumo negli occhi. La tassa però procede nel suo cammino. Incassato il via libera del Parlamento europeo nel maggio scorso, lo stesso Europarlamento ha introdotto novità determinanti, fuori i fondi pensione e l'invito ad andare avanti anche senza l'accordo di tutti i paesi. Nelle prossime settimane la Commissione dovrebbe approvare un testo sulla base del quale avviare le trattative con i singoli governi. Saranno trattative tutte in salita. A sbarrare la strada, oltre alla Gran Bretagna, Irlanda e Lussemburgo, convinti che una simile imposta potrebbe rendere l'Europa poco attraente. Il servizio era di Valeria De Rosa. Sindacati del trasporto aereo sul piede di guerra contro le nuove regole imposte dalla Commissione europea sui tempi di volo di servizio. Ieri giornata di mobilitazione per la sicurezza. Secondo i sindacati, le nuove regole consentiranno alle compagnie di programmare turni di volo al limite della sicurezza. Non è così, replica il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, qui al microfono di Maria Luisa Pezzali. You've got to understand that air flying in Europe is the safest. Sì, attualmente in Europa i piloti sono, diciamo, l'Europa è il paese dove ci sono più sicuri, non volano tanto, volano 900 ore all'anno, quasi 18 ore settimanali, quindi questo porta naturalmente ad avere una maggior sicurezza. Con queste nuove norme si potrà arrivare a 20-22 ore settimanali. No, gli orari settimanali non dovrebbero cambiare, dovrebbero rimanere quelli che sono. Sono i sindacati che dicono che si potrà arrivare a quelle soglie di orari. Quello che dicono sì, appunto, i sindacati dei piloti non è esatto, non cambieranno le ore annuali e quindi continueranno i piloti europei ad essere quelli appunto che lavorano nell'ambiente più sicuro del mondo. La battaglia degli apicoltori per salvare le api dai pesticidi, il miele dalla contaminazione OGM, riparte proprio dall'Europarlamento a discutere nella Commissione Petizioni, che ad oggi ha spiegato non ritiene giustificato il divieto dall'uso di OGM, ma che intende monitorare la situazione e ha annunciato già un nuovo studio sul dossier entro la fine del mese di marzo. Bene, con questo è tutto. Filippo Aureggi in regia, Gigi Donnelli al microfono. L'appuntamento con GR Europa è per domani, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.